In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Gennaio del 1890 sul Mercure de France, che era una prestigiosa rivista letteraria dell'epoca, un critico d'arte molto autorevole, si chiamava Albert Aurier, pubblica un articolo inaspettato, analizza e esalta in questo articolo la pittura, la personalità di un artista che allora era del tutto sconosciuto. L'articolo recitava così: la scelta dei soggetti, lo studio coscienzioso dei caratteri, la continua ricerca del segno essenziale per ogni cosa. Mille significativi particolari testimoniano irrefutabilmente la sua profonda e quasi infantile sincerità, il suo grande amore per la natura e per la verità, per la sua verità. Ciò che caratterizza tutta la sua opera è l'eccesso. L'eccesso della forza, l'eccesso della nervosità, la violenza dell'espressione. Nella sua categorica affermazione della caratteristica delle cose, nella sua insolenza nel guardare il sole in faccia, nella foga del suo disegno e del suo colore, fino ai più piccoli particolari della sua tecnica, si rivela una personalità potente, maschia, audace, molto brutale, ma a volte ingenuamente delicata. Questo inoltre si intuisce anche dalle esagerazioni quasi orgiastiche presenti in tutta la sua pittura. È un esaltato, nemico della sobrietà borghese e delle minuzie. Una specie di gigante ebro, un genio folle e terribile, spesso sublime, qualche volta grottesco, quasi sempre svelante qualcosa di patologico. Il pittore del quale sta parlando Albert Aurier, il primo critico che si occupò di lui, avete sentito anche con quale entusiasmo, questo pittore è un uomo relativamente giovane, non ha ancora 37 anni, ha alle spalle però una esistenza drammatica, a raccontarla sembra quella di un anziano, di uno consumato dalla vita, uno già passato attraverso dolori indicibili, un'anima tormentata, uno che aveva già sperimentato tutto, la fame, la povertà, la malattia, aveva cambiato professioni, aveva cambiato città, paesi, insomma una vita drammatica e avventurosa, un'anima in pena, uno che non si era veramente risparmiato niente, neanche le violenze su se stesso, l'automutilazione, e però anche un artista straordinario, è uno che ha regalato al mondo 900 dipinti, anche di più, dipinti di bellezza incommensurabile, più di 1000 disegni acquerelli. Solo che all'epoca di questo articolo il mondo non sapeva tutto questo, non stava comprendendo la grandezza. Lo farà di lì a poco, ma come spesso accade, tutto avverrà solo dopo la morte prematura di questo artista. Bene, oggi racconteremo la sua storia, la sua incredibile, ricchissima vita interiore, le sue vicissitudini strazianti che lo hanno condotto fino al baratro della disperazione. Il nostro personaggio di oggi è il grandissimo pittore olandese Vincent van Gogh, l'icona mondiale della pittura per eccellenza, uno dei più grandi artisti della intera storia dell'umanità. Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni. Questa frase bellissima di Vincent van Gogh racchiude in sé tutta la poetica della sua arte, quella che sembrerebbe l'ineluttabilità di una scelta di vita, in realtà va riferita solamente a un breve periodo della sua esistenza. Lui ha intrapreso tardi la professione di pittore, ha cominciato a 28 anni, prima aveva in mente tutt'altro. Vincent van Gogh nasce il 30 marzo 1853 a Grootzundert, che è un villaggio nel Brabante settentrionale, che è una provincia dei Paesi Bassi, diciamo al confine con il Belgio. Il padre Theodorus è un religioso, un pastore calvinista. La mamma Anna Cordelia Carbentus è la figlia di un ricco rilegatore di libri. Dà alla luce questa donna il 30 marzo 1852 un figlio a cui viene imposto il nome di Vincent, e il bambino muore subito. Esattamente un anno dopo, cioè il 30 marzo 1853, lei dà alla luce un suo secondo figlio, che è il futuro pittore, e gli dà il nome del fratellino morto, Vincent, contro, diciamo, tutte, come dire, le leggi della psicologia, della pedagogia, direi. Ascoltate il commento dello storico d'arte Rainer Metzger, che nel 1990 ha scritto il libro Van Gogh, tutti i dipinti. Fin dal primo giorno, la vita di Vincent van Gogh fu segnata da una triste coincidenza. Essere nato a distanza di un anno esatto, proprio lo stesso giorno della nascita e morte del suo fratellino maggiore. Numerosi psicologi non mancarono di sottolineare che questo bambino, in un certo senso, era venuto al mondo nell'anniversario della propria morte, e videro in ciò la radice dell'inclinazione dell'artista al paradosso e alla follia. La coppia Van Gogh poi ha altri cinque figli: Anna, Theo, Elisabeth, Wilhelmina e Cornelis. Vincent frequenta diverse scuole, collegi, con scarso rendimento, che è un fatto, insomma, abbiamo capito ormai che tutti i geni a scuola andavano male. Anch'io andavo male, peraltro. Comunque, non è questo il punto. Viene mandato a lavorare, e qui interviene uno zio paterno, si chiama Sente, un mercante d'arte, lo propone come impiegato alla casa d'arte Goupil a Laia. Goupil è un editore specializzato nella riproduzione di stampe, di litografie. Vincent si trasferisce lì, siamo nel 1869, e comincia a lavorare. All'inizio si applica con dedizione alla vendita delle opere, è un bravo commesso, studia per conoscere bene la materia, sa le lingue perché a scuola ha studiato francese, inglese e tedesco. Insomma, sembra avviato bene a una carriera, come dire, dietro le quinte. La famiglia è lontana, si scrivono rapporti epistolari, si diceva una volta. Specialmente forte è il legame con il fratello Theo, il fratello al quale lui è più legato, e peraltro con lui intreccerà in tutta la sua esistenza un rapporto assolutamente particolare con Theo e con la moglie. Inizia proprio in questo periodo la sua produzione gigantesca di lettere, che peraltro sarà la fonte di informazioni su di lui da parte di tutti i futuri biografi. Poi nel 1873 Vincent, a 20 anni, viene trasferito a lavorare nella sede di questo Goupil a Bruxelles, poi va a Londra, insomma inizia a viaggiare, comincia a spostarsi, l'attività diventerà presto frenetica. Lui nella sua vita abiterà in tantissimi posti diversi, continuerà a spostarsi, non trovava pace in realtà. Nel trasferimento da Bruxelles a Londra fa sosta a Parigi, la Ville Lumière lo incanta per la sua bellezza e viene travolto dal fermento culturale che c'era attorno alla Ville Lumière, visita il Louvre, ne rimane colpito. Insomma, sono i primi contatti con la vera arte, con la grande pittura degli artisti immortali, che lui per il momento guarda da fan, li guarda con ammirazione, non sapendo che un giorno entrerà a far parte a pieno diritto di quell'Olimpo. A Londra Vincent ha la sua prima cocente delusione, e ne vivrà molte nella sua tormentata esistenza, una delusione amorosa. In realtà l'argomento Vincent van Gogh e le donne richiederebbe una puntata a parte e l'analisi anche di un bravo psicanalista. Insomma, il fatto che lui abita nella pensione di una certa signora Ursula Loyer, questa signora ha una figlia e lui si innamora di questa ragazza, lei si chiama Eugene. Vincent ha un suo mondo interiore ricchissimo, tormentato, vive i sentimenti in maniera totale, tutti i sentimenti, figuriamoci l'amore, è inesperto dell'argomento, non riesce a gestire tutto quello che l'amore comporta. Insomma, Eugenia è la prima ragazza della quale lui si invaghisce e vive questa passione in silenzio, non ha il coraggio di dichiararsi, si strugge d'amore. Alla fine, quando riesce a parlarle, riesce a esternare, immaginate con quale fatica, i suoi sentimenti, lei candidamente gli dice che è già fidanzata. Lui precipita in una crisi depressiva profondissima, chiede di poter tornare all'AIA, trascura il lavoro, l'arte non lo interessa più, va a cercare nella religione la salvezza per la sua anima ferita. La Bibbia prende il posto dei libri di pittura e scultura, scrive lettere su lettere al fratello. Caro Teo, un sentimento per quanto profondo per le bellezze della natura non coincide con il sentimento religioso, anche se credo che i due siano legati. Quasi tutti, chi più chi meno, hanno un senso per la natura, ma sono pochi quelli che sentono che Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Papà è uno di quei pochi. Preghiamo dunque di poter diventare ricchi in Dio. Chiediamo che la nostra parte nella vita sia essere i poveri nel regno di Dio. Ancora non lo siamo diventati, perché spesso nel nostro occhio ci trovi travi che non sappiamo di avere. Insomma, l'avete sentito, siamo in pieno misticismo religioso. Intanto il 1 aprile del 1876 viene congedato dal suo posto di lavoro, anche perché quell'attività lui ormai la sente estranea. Dopo pochi giorni parte per Ramsgate, che è un sobborgo di Londra, va a lavorare come supplente presso la scuola del reverendo metodista William Stokes, e qui lui può dare sfogo alla sua nuova religiosità che lui ha coltivato sul modello del padre. Siamo al ritorno dei valori francescani, quindi rinuncia dei beni terreni, ascetismo. Ecco, decide poi di tentare la missione alla facoltà di teologia a Amsterdam e viene respinto agli esami. Nel 1878 si iscrive a un corso di evangelizzazione a Laeken, siamo vicino a Bruxelles, e anche lì però non viene ritenuto idoneo a svolgere l'attività che voleva svolgere, cioè predicatore laico. Però lui ci tiene troppo, in quel momento questo è il suo chiodo fisso, si impegna, riesce a ottenere un incarico semestrale dalla scuola evangelista di Bruxelles, che lo manda a Vasmes nel Borinage. Il Borinage è una regione carbonifera belga dove i lavoratori vivono in condizioni drammatiche. In questo centro minerario, che definirei miserabile, Van Gogh è veramente povero tra i poveri e si prende cura dei malati, predica la Bibbia. La sua abnegazione rasenta il fanatismo. Ascoltate questo passaggio tratto dal film Brama di vivere di Vincent Minnelli del 56. Van Gogh qui è interpretato dal mitico Kirk Douglas. Signor Van Gogh, cosa significa tutto ciò? Lei riceve un appannaggio perché vive nella più misera capanna del villaggio. Non avrei il diritto di parlare di Dio a questi poveretti se non soffrendo con loro. Ma il suo aspetto è indecente. È vestito di stracci sudici. Molti qui non hanno neanche stracci. Dobbiamo credere che realmente lei dorme su questa paglia sporca come una bestia randagia. Io non... Lei capo spirituale della comunità. Ho dato il mio letto a una donna ammalata, serviva più a lei. Lei è ancora nuovo in questo campo, lei ha creduto di far bene, ma di fatto col suo comportamento ha degradato la dignità della chiesa che lei rappresenta. Non ha il senso della decenza? Non comprende lei che se il clero deve essere rispettato... Non tengo ad essere rispettato! Io voglio vivere davvero cristiano. Non mi preoccupo di come o dove dormo. Dia un'occhiata alle tombe ancora aperte di quei ragazzi. Raccolgano il pattume con le donne di qui. Si sporchino quei bei vestiti di sudore e di sangue e poi potranno insegnarmi a vivere cristianamente. Ipocriti! Ipocriti! Così, una volta scaduti 6 mesi, i suoi superiori non gli rinnovano il contratto di catechista. Lui è infuriato, è convinto di avere una missione da compiere, si trasferisce in una cittadina lì vicino che si chiama Quesmes, vive con un minatore del luogo in miseria, si prodiga per la comunità, è un invasato, però si è spezzato qualcosa dentro di lui. A un certo punto, per fortuna nostra direi, capisce che quella del catechista non è la sua vera strada. Forse c'è un altro modo per servire Dio, per dare conforto ai suoi simili. E lui cade in una crisi che non è più una crisi mistica, lo sappiamo a posteriori, insomma è la ricerca di un altro mezzo espressivo. E finalmente, per sua fortuna, ma direi soprattutto per nostra fortuna, individua questo mezzo nella pittura. Lui peraltro l'arte l'aveva sempre amata, aveva sempre seguito con passione il lavoro del fratello. Scrive al fratello ateo i suoi nuovi propositi. Quando mi trovavo in un altro ambiente, in mezzo a quadri e oggetti d'arte, mi prese, come ben sai, una violenta passione, un forte entusiasmo, e non me ne pento. E ancora adesso, lontano dal paese, ho spesso nostalgia dei quadri. Bene, ora non sono in quell'ambiente. Eppure, invece di soccombere al male del paese, mi sono detto: il paese e la patria sono ovunque. E quindi, invece di abbandonarmi alla disperazione, ho optato per la malinconia attiva, per quel tanto che mi consentiva l'energia. In altre parole, ho preferito la malinconia che spera, che aspira e che cerca a quell'altra che, cupa e stagnante, dispera. E allora, con la stessa forza e tenacia con la quale aveva rinunciato a tutti i beni terreni, aveva fatto il predicatore, con la stessa forza lui si mette a studiare pittura. Siamo nel 1880, lui ha già 27 anni, non ha più l'età di uno studente, però non gli importa, prende dimestichezza col disegno a matita, con l'acquerello, comincia a studiare prospettiva, anatomia umana e si impegna, viene aiutato dal fratello Teo, anche perché nel frattempo è tornato a casa dai suoi, è stato accolto con gioia, tutti sono felici per il fatto che lui abbia lasciato quella vita faticosa, quella vita randagia, però il suo nuovo equilibrio subisce un duro colpo, perché conosce una cugina, si chiama Cornelia Adriana Fostricker, detta Chi, lei è rimasta vedova da poco tempo, lui se ne innamora profondamente, Chi non ha ancora superato il lutto per il marito, lo respinge e lui, come al solito, è disperato, lascia la casa paterna, va a vivere all'Aia, si macera nel dolore per mesi, però per fortuna quantomeno continua nel soffrire, continua a esercitarsi nella pittura. Autunno del 1881 arriva un gesto estremo, disperato. Lui fa una proposta ufficiale di matrimonio alla cugina Aki davanti ai genitori di lei. Lei lo respinge per l'ennesima volta e lui si ustiona pesantemente una mano sulla fiamma di una lampada per dimostrarle la serietà del suo sentimento. Ovviamente lei si spaventa e lui ottiene l'effetto contrario. Però va detto che, insomma, gli innamoramenti e l'arte, come spesso accade, vanno di pari passo nella vita di Van Gogh. Forse senza le sensazioni così forti che lui prova, le sensazioni soprattutto per le donne, le sensazioni che lui vive con questa passionalità intensa e disperata, lui probabilmente non sarebbe mai riuscito a far emergere quella sua incredibile vena artistica, quella che tutti noi oggi ammiriamo nelle sue incredibili opere. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi, un uomo, un artista straordinario, geniale in maniera incredibile, ma totalmente incompreso in vita, è Vincent Van Gogh, un'icona senza tempo, uno dei più grandi pittori della storia dell'arte mondiale. Questo nonostante, anzi forse proprio grazie a una vita drammatica, una vita segnata dalla malattia mentale, da un senso profondo di inadeguatezza, un senso che lo ha accompagnato per tutta la sua breve esistenza. E nel nostro racconto siamo arrivati al 1882. Vincent ha 29 anni, sta meditando il suicidio perché è stato nuovamente respinto da una donna. Questa volta è una sua cugina, si chiamava Chi. A questo punto della storia si trova all'Aia, è fuggito per allontanarsi per l'ennesima volta da tutto e da tutti. Ebbene, qui conosce una prostituta trentenne, alcolizzata, butterata dal vaiolo. Il nome intero sarebbe Christine Clasina Maria Orne, e viene detta Sin. Lei è madre di una bambina, è in attesa di un altro figlio, insomma è una donna derelitta, ai margini della società, l'ultima della quale in teoria uno potrebbe innamorarsi. Bene, lui in lei vede un segno divino, la toglie dalla strada, va a convivere con lei. Naturalmente i due fanno la fame, lui non guadagna niente e in più lei, come regalo di fidanzamento, gli passa la gonorrea. deve essere ricoverato in ospedale. Insomma, è evidente che le scelte sentimentali di Van Gogh sono sempre sciagurate, sia quando va male, ma soprattutto in questo caso quando va bene. Insomma, alla fine finisce male, Sin torna sulla strada, torna alla sua professione. Vincent, disperato, fugge di nuovo dai genitori, che nel frattempo si sono trasferiti a Neuenen, sempre nel Bramante. Ascoltate ancora lo storico dell'arte Rainer Metzger. Purificato dal fervore religioso e dal bisogno di sacrificarsi per il prossimo, dal sogno di una vita familiare e dalla delusione di un abbandono annientante, Vincent ha recuperato in sé una sorta di superiorità che gli consente di sviluppare la propria arte indipendentemente dalle condizioni in cui vive. A Neuenen crea presto i primi capolavori, i primi Van Gogh. E finalmente ci siamo, questa genesi tormentatissima si è compiuta. A 30 anni Vincent Van Gogh trova la sua strada, la strada che non aveva saputo individuare nella giovinezza. Lui insomma ha dovuto trovarla faticosamente nei meandri della sua mente malata, della sua mente contorta, all'interno delle sue sofferenze. Van Gogh è veramente l'esasperazione di quello che è un artista. Alla fine c'è la fa, gli anni di Neuenen diventano finalmente anni prolifici, numerosissimi acquerelli, 200 dipinti, e tra questi uno dei suoi maggiori capolavori, I mangiatori di patate. Ho voluto far capire che questa povera gente, che alla luce di una lampada mangia patate servendosi dal piatto con le mani, ha zappato essa stessa la terra dove quelle patate sono cresciute. Il quadro dunque evoca il lavoro manuale e lascia intendere che quei contadini hanno onestamente meritato di mangiare ciò che mangiano. Ho voluto che facesse pensare ad un modo di vivere completamente diverso dal nostro, di noi esseri civili. Non vorrei assolutamente che tutti si limitassero a trovarlo solo bello o pregevole. In questa lettera che Vincent scrive al fratello Theo, siamo nell'aprile del 1885, questa lettera è contenuta proprio tutta la poetica della sua pittura, il significato profondo di quello che lui vuole trasmettere attraverso i suoi quadri, che non è solo valore artistico intrinseco, ma è messaggio d'amore, la pietas verso l'umanità sofferente. Lui però abbiamo capito che è incapace di stare troppo tempo nello stesso posto. Nel 1885 lascia la casa dei genitori, anche perché il padre viene stroncato da un colpo apopletico, si racconta, dopo aver litigato. Lui litigava spesso col padre, insomma si sente responsabile di questa morte. Allora va a vivere a Anversa, poi finalmente a Parigi, dove raggiunge Theo, che sta dirigendo una galleria d'arte a Montmartre. E lui ritorna nella Mecca dell'arte, nel centro della cultura mondiale, cioè la Ville Lumière, rimane nuovamente affascinato, ma questa volta non voglio dire da collega, ma insomma da persona più coinvolta. Parigi è Parigi, non c'è che Parigi, ripete al fratello, e qui lui comincia a incontrare i grandi pittori dell'epoca, conosce Toulouse-Lautrec, fa amicizia con Monet, Renoir, Degas, Seurat, Signac. Poi nell'autunno del 1886 incontra Paul Gauguin e i due diventano subito molto amici. Beh, tutti questi artisti sono sicuramente fonte di ispirazione per lui, stimolo, così come le varie correnti del momento, l'impressionismo, il giapponismo, sì, perché le stampe giapponesi sono di gran moda in quegli anni a Parigi e influenzano molti artisti. E Van Gogh però riesce a filtrare tutti questi stimoli attraverso una concezione molto personale dell'arte. Insomma, realizza dipinti che in realtà non rientrano in nessuna corrente specifica. La corrente è lui. In questo periodo peraltro dipinge tantissimi autoritratti, ne farà 37, è ossessionato dalla sua immagine, e lui dice a Theo: tutti pensano che sia difficilissimo conoscere se stessi, ma anche ritrarsi è molto difficile, è altrettanto difficile. Dopo due anni a Parigi Vincent si stanca nuovamente, la febbre lo prende per l'ennesima volta vuole conoscere il mezzogiorno francese con la sua luce, con le sue tinte mediterranee, lontane diciamo da quel cromatismo nordico. E nel febbraio 1888 va a Arles in Provenza, abiterà nella famosa Casa Gialla, uno degli edifici diventati più rinomati della storia dell'arte. Oggi purtroppo non esiste più, è stata danneggiata da un bombardamento del 44. E qui a Arles Vincent realizza 200 dipinti, quindi il lavoro è veramente febbrile, e molti capolavori immortali di Van Gogh nascono da lì: il Caffè di notte, la sedia di Vincent, la camera di Vincent ad Arles, Notte stellata sul Rodano. E decide di invitare anche lì il suo amico Paul Gauguin, perché ha in mente un progetto grandioso. Quando si fa il pittore, o si passa per pazzi oppure per ricchi. Una tazza di latte ti costa un franco, una pagnotta due, e intanto i quadri non si vendono. Ecco perché bisogna mettersi insieme, come facevano gli antichi monaci, i fratelli della vita in comune, nelle nostre brughiere olandesi. Non chiederei di meglio, ma poiché si tratta della vita in comune di diversi pittori, io dichiaro che anzitutto ci vorrebbe un abate per mantenere l'ordine, e che naturalmente questi dovrebbe essere Gauguin. Insomma, Van Gogh vorrebbe realizzare una specie di comune di artisti. Teme un rifiuto dell'amico, anche perché la sua vita insomma è stata costellata da rifiuti. Chiede aiuto a Theo, al fratello. Theo, nell'estate del 1888, contatta Gauguin, gli offre di pagargli il soggiorno ad Arles, e gli garantisce l'acquisto di 12 quadri per la cifra di 150 franchi, insomma un minimo garantito annuale, diciamo così. Gauguin accetta, pensando di riuscire a mettere da parte quanto gli serve, perché Gauguin ha un sogno: trasferirsi appena possibile in Martinica. Quello che sta per succedere però è qualcosa di imprevisto e stravolgente, che cambierà per sempre la vita di Vincent Van Gogh. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Arriva a Arles il 29 ottobre 1888, rimane deluso, non gli piace, la definisce il luogo più sporco del mezzogiorno. Peraltro non si trova neanche bene con Van Gogh, perché Gauguin è uno più precisino, è irritato dalle abitudini disordinate di Van Gogh, non gli va anche come lui amministra il denaro comune, insomma non vanno d'accordo. Però per Gauguin si tratta solo di aspettare qualche mese e poi andarsene in Martinica. Per Vincent naturalmente quel fallimento è un'altra cosa, lui lo vive come sempre in maniera catastrofica: è la distruzione di un ideale, è la fine di un progetto nel quale si è buttato a capofitto, e insomma piomba nuovamente nella disperazione, anche se non sappiamo se lui ne sia mai uscito in realtà. E così comincia a maturare un astio terribile nei confronti dell'amico. Una sera, nella quale ha bevuto parecchio, gli scaglia un bicchiere in faccia. Gauguin lo schiva per miracolo. Naturalmente seguono giorni di tensione, di litigi plateali. Insomma, Gauguin decide di partire, fa le valigie, lascia la Casa Gialla alla fine di un alterco accesissimo. E il 23 dicembre 1888 Van Gogh lo insegue in strada con un rasoio, vuole aggredirlo, ci rinuncia quando l'amico l'affronta con violenza, rimane da solo in preda a disperate allucinazioni. L'antivigilia di Natale, insomma un momento terribile, torna a casa, rivolge verso di sé la sua furia autolesionista, si taglia il lobo dell'orecchio sinistro, poi avvolge nella carta di giornale questo trofeo sanguinante, lo porta in regalo a Rachele, una prostituta del bordello che i due pittori, che lui e Gauguin, erano soliti frequentare. La ragazza chiama la polizia e trova Van Gogh in un lago di sangue, lo fa ricoverare in un manicomio e inizia un periodo drammatico. Lui comincia a entrare e uscire dagli ospedali. L'8 maggio 1889 decide volontariamente di ricoverarsi nella Maison de Santé di Saint-Paul de la Mosolle, che è un vecchio convento adibito a ospedale psichiatrico. Siamo a una ventina di chilometri da Arles. Le ragioni reali della sua malattia in realtà rimangono un mistero ancora oggi. Ascoltiamo ancora Rainer Metzger. Nel corso dei decenni, almeno 150 psichiatri di tutto il mondo hanno tentato di classificare i disturbi di Van Gogh, col risultato di circa 30 diagnosi diverse. Esse includono la schizofrenia, il disturbo bipolare, la sifilide, l'avvelenamento da ingestione di vernici al piombo, il saturnismo, l'epilessia del lobo temporale e la porfiria acuta intermittente, con l'aggravante della malnutrizione, del lavoro eccessivo, dell'insonnia e del consumo di alcol, in particolare di assenzio. E nonostante la sua malattia, Van Gogh raggiunge la massima espressione della sua arte. In realtà forse è proprio grazie alla sua malattia. La maledizione di Van Gogh è questa, insomma: più lui stava male nel psiche e meglio lavorava. E infatti durante la degenza nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy lui realizza altri 150 dipinti straordinari, un sacro e disperato fuoco. Sta male quando gli arriva la notizia del matrimonio di Theo con Joanna Bonheur, viene preso dal panico, ha paura di perdere il fratello, tenta il suicidio ingerendo dei colori a olio. Siamo nel dicembre del 1889, insomma, peraltro questo gesto, insomma, ci fa capire quale grado di dipendenza avesse dal fratello Theo, ma anche ci fa capire quanto la sua anima fosse totalmente fuori controllo. Intanto però si comincia a parlare di lui, i suoi quadri cominciano a suscitare un certo interesse, gli viene proposto di esporre alla mostra dei pittori indipendenti a Parigi nel marzo del 1890. Ci sono tutti i grandi: Seurat, Rousseau, Monet, Pissarro, Toulouse-Lautrec. I 10 dipinti di Van Gogh però vengono giudicati i migliori, perfino Gauguin, nonostante insomma tutto quello che era successo, gli scrive: di tutti sei il solo che pensa. Viene dimesso dal manicomio di Saint-Rémy il 16 maggio del 1890. Qualche giorno dopo Theo lo porta a Auvers-sur-Oise, che è un villaggio a una trentina di chilometri da Parigi. Lì c'è un medico amico di famiglia, si chiama Paul Ferdinand Gachet, uno psichiatra ma è anche un amante dell'arte. Insomma, quest'uomo lo prende in cura. Vincent peraltro fa a questo medico un ritratto venduto nel 1990 a 82 milioni di dollari e mezzo. È uno dei dipinti più costosi della storia. E poi qui dipinge tutta la serie dei suoi mitici girasoli, dei suoi campi di grano. L'ultima sua opera è considerata proprio campo di grano con un volo di corvi, dipinto l'8 luglio 1990. Ascoltate cosa dice Vittorio Sgarbi di questo quadro straordinario. Questo campo di grano con il volo di corvi è in realtà l'espressione di uno stato d'ansia, di uno stato di inquietudine, di uno stato di follia. È un quadro che non ci dà pace. Qui la natura è veramente matrigna, è una natura crudele, che ti fa male, che ti colpisce. È una natura che ha dentro di sé delle spinte malefiche. Ecco, di questo male Van Gogh è il pittore più grande. Egli dipinge il male di vivere. Questo male di vivere non l'ha abbandonato mai. La sera del 27 luglio 1890 Vincent Van Gogh viene trovato nel suo letto agonizzante. Si è sparato un colpo di rivoltella al petto. Al dottor Gachet dice: volevo suicidarmi ma ho fatto cilecca. Se mi salvate ci riproverò, ma nessuno può salvarlo. Passa tutto il 28 luglio col fratello Theo, che ha corso al suo capezzale, e muore la notte del 29 all'1:30 e muore a soli 37 anni. Theo peraltro gli sopravviverà solo 6 mesi, sopraffatto dalla morte di quel fratello meraviglioso e disperato. Viene a sua volta ricoverato in una clinica per malattie mentali a Utrecht e morirà il 25 gennaio 1891, quasi come se Vincent lo avesse trascinato con sé nel gorgo nel quale è precipitato per tutta la vita. E sarà la cognata Joanna Bonheur che con forza, con determinazione, farà conoscere al mondo l'opera di Van Gogh e anche le bellissime lettere che lui scriveva a Theo. Noi peraltro Joanna Bonheur l'abbiamo raccontata in una puntata che l'abbiamo dedicata un po' di tempo fa. Chi sono io agli occhi della gente? Una nullità, un uomo eccentrico e sgradevole, qualcuno che non ha posizione sociale né potrà mai averne una. Sono l'infimo degli infimi. Ebbene, anche se ciò fosse vero, vorrei che le mie opere mostrassero cosa c'è nel cuore di questo eccentrico nessuno. Sono parole meravigliose che Van Gogh scriveva poco prima di morire. Noi crediamo che lui sia riuscito, nella sua terribile vita così breve, così intensa, sia riuscito a dare tantissimi colpi d'ala. Uno ha dipinto, direi, ha dimostrato intanto quello che c'era di meraviglioso nel suo cuore, poi ha mostrato che l'unico modo per giudicare un vero artista è quello di parlare delle sue opere, e ha dimostrato anche che purtroppo i grandi artisti hanno fatto quello che hanno fatto anche e soprattutto in virtù dei mali della loro anima. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, scrivete al nostro sito o ai nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili. Proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.